Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Oggi vi voglio portare in un posto un po' segreto della mia città di Milano. Nella zona della Darsena c'è l'antica chiesa di Sant'Eustorgio, una delle chiese più antiche della città e che era la sede dei Domenicani, la principale sede domenicana a Milano. Qui c'era un confratello che si chiamava Pietro da Verona con la lingua particolarmente tagliente, talmente tagliente che al ritorno da una predica che aveva tenuto a Como viene ucciso sulla strada. Quindi è il primo martire dell'ordine domenicano, San Pietro Martire. I Domenicani lo celebrarono con una meravigliosa arca marmorea fatta costruire da Giovanni di Balduccio, un grande scultore senese alla metà del 300, ma poi venne costruita alla metà del 400 una cappella sul fondo della chiesa. Era la cappella di Pigello Portinari, che non era altro che un banchiere ed era il corrispondente dei Medici del Banco Mediceo a Milano. Questo signore disponeva di mezzi illimitati e fece costruire la prima grande cappella rinascimentale a Milano. Noi oggi entriamo, perché bisogna attraversare tutta la chiesa, andare sul fondo in questo luogo magico che ha mantenuto intatto il fascino della Milano di Francesco Sforza. C'è questa architettura di cui non sappiamo l'autore, forse Michelozzo, forse Filarete, forse Solari, non si sa, ma è una cappella perfettamente a pianta centrale, esattamente con quella struttura rinascimentale che si vede nei trattati e nei disegni di quel tempo, ed è affrescata dal primo grande pittore rinascimentale milanese, cioè Vincenzo Foppa, che proprio nella parte alta dipinge quattro episodi miracoli della vita di questo primo grande santo dell'ordine domenicano, cioè di San Pietro Martire. Nel Settecento poi la grande arca che si trovava in chiesa, questo colossale, questa montagna di marmo meravigliosa, scolpita in ogni dettaglio con le storie ancora una volta dei miracoli della vita del santo, venne portata all'interno della cappella. Quindi paradossalmente non c'entra nulla con quell'insieme, però noi oggi ci godiamo questo insieme davvero eccezionale, cioè una grande opera scultorea del 1330, quindi l'età dei Visconti, quando tra l'altro i Visconti chiamano a Milano anche Giotto, quindi un momento straordinario, e poi l'involucro, questa bellissima cappella rinascimentale dell'età di Francesco Sforza. Quindi un insieme che vi consiglio vivamente.